Io a Roma non riesco a dire di no. C'è qualcosa, c'è una cordialità scanzonata che a volte è disinteressata, a volte un po' cialtrona a Roma, a cui non riesco a non sottostare. E tutto quello che mi viene proposto, io lo accetto. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è il retro di un passeggino. Per retro inteso la parte nemmeno posteriore, la parte alta del passeggino. In campo c'è la mano sinistra di un uomo con un pezzo di manica e una fede. E poi c'è proprio il passeggino con la testolina del figlio o della figlia, non si capisce perché ha su un cappuccio in testa. Le cose che si vedono sono che si possono capire sono che il papà è sposato perché ha la fede, che il bambino è molto protetto perché c'è anche una copertina di quelle di Pyle con sugli animaletti, e che la carrozzina, ecco, questo non si capisce, la carrozzina ha attaccato, sembra una carrozzina della Levi's, ma la Levi's non fa le carrozzine, fa i jeans. No, ok, ho capito. Attaccato, forse è peggio. Speravo fosse una carrozzina della Levi's, invece no. Cioè, aggrappato alle due maniglie della carrozzina, dove una delle quali c'è la mano sinistra del padre, l'altra no perché sta fotografando, aggrappato a queste due maniglie c'è un marsupio della Levi's. Quindi il papà di questo povero bambino o di questa povera bambina è un tizio da marsupio. Roberto Calegari, 39 anni. Io sono qui, a spasso con il mio papi. Io sono qui, a spasso con il mio baby. Noi siamo qui. Come stai? Tu sei quello che mette incinta la somala e poi si innamora di Corinna, giusto? No. No, aspetta, fammi indovinare. Tu sei il fratello buono del conte che trova l'anello, si sente male e muore. René, sono Davide, l'ufficio stampa. Ma l'abbiamo già girata la scena dell'ufficio stampa. Io ho una passione per gli uffici stampa. Io ho una passione per due tipi di lavori, fondamentalmente. Il consulente. E questo, vabbè, non me lo toglie nessuno. E l'ufficio stampa. C'è il caso che probabilmente il protagonista dello scatto che vi ho raccontato oggi, che è Roberto, sia magari un ufficio stampa o un consulente. Questo non lo so. Spero non me ne abbia per il fatto che ho questo rapporto difficile con il marsupio. Lui però ha mandato la foto per... E voi dove siete? Vi invito a continuare a farlo, visto che continuano ad arrivare sul profilo Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. Si tratta di mandare la foto che vi va di mandare rispetto al luogo in cui voi vi sentite di trovarvi. Basta fare una foto a quello che volete, che però è il posto in cui voi vi trovate, e basta inviarla al profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qua, proprio come ha fatto Roberto. Però gli uffici stampa, mi capita in questo periodo, non so per quale motivo, forse per dei casi, di entrare in contatto con gli uffici stampa. Io tra l'altro ho fatto degli studi più o meno che avevano a che fare con la comunicazione, e quindi io mi ricordo bene che cosa mi hanno insegnato parlandomi dell'ufficio stampa, che lavoro è l'ufficio stampa. Tra l'altro, ecco, questo oggi vorrei, l'avrete capito, vorrei sentire delle persone che fanno l'ufficio stampa. 800 24 00 24, 349 238 6666. Innanzitutto perché spieghino esattamente che cos'è e che cosa fa l'ufficio stampa, perché non è così scontato. A parte che ci sono molte persone che non lo sanno, ma soprattutto perché poi quello dell'ufficio stampa è un lavoro che io non riesco proprio a capire. Ci vuole, credo, una vocazione per fare quel mestiere lì, in cui devi essere sempre cortese con delle persone che spesso non lo sono con te, in cui devi scrivere delle cose in cui spesso non credi, e in cui devi dire fondamentalmente di sì a delle persone che per lo più non ti stanno simpatiche. 800 24 00 24, 349 238 6666. Poi non è sempre così, sì, ovviamente, però anche dai messaggi che mi sono arrivati su Facebook la sensazione è quella. Alessandro, ad esempio, mi scrive: collaboro da qualche tempo con uno dei giornali della mia città, ho cassetti pieni di comunicati stampa di vario tipo e genere, alcuni contenuti in quelle fantastiche ed enormi cartelline stampa bianche con il logo dell'istituzione o dell'azienda di turno, un tripudio di date, orari, vie, avvisi più o meno importanti snocciolati in qualche riga di testo. qualche. Ce ne sono di interminabili e di eccessivamente sintetici, di rigorosamente dettagliati e di spaventosamente incompleti. Alla lunga, al comunicato stampa ci si può appassionare, addirittura, se non affezionare. Un po' come a quei vecchi ticket dei musei che cerchiamo di conservare intatti nello scomparto più sicuro del nostro portafoglio. Sfidando il deterioramento del supporto cartaceo, diventa un oggetto da collezione, quasi un feticcio. 800 24 00 24, 349 238 6666. Tutti gli uffici stampa all'ascolto. Se hanno voglia di chiamarmi e di leggermi l'ultimo comunicato stampa che hanno appena creato, quello, diciamo, che hanno scritto un'ora fa o ieri, di qualsiasi cosa parli, non chiedetemi perché, ma provo una morbosa attrazione nei confronti dei comunicati stampa, anche perché mi ricordo proprio la lezione ieri, poi ripensandoci, pensando alla puntata di oggi e a quello che mi è capitato due weekend fa quando ero a Roma e ho incontrato un ufficio stampa, sono andato a riprendere una, come si chiama, non un libro, una dispensa che mi avevano dato in università su come si fa un comunicato stampa. C'era stato una specie di laboratorio intero sul comunicato stampa e l'inizio era così: cos'è un comunicato stampa? È un messaggio che l'azienda invia ai mezzi di comunicazione per portare a conoscenza di notizie che la riguardano, tipo l'apertura di uno stabilimento, un evento importante, il lancio di un prodotto innovativo e altro. Se la notizia è interessante per i lettori, alias i giornalisti, dal comunicato nascerà un articolo giornalistico. 800 24 00 24, 349 238 6666, uffici stampa, l'ultimo comunicato che avete scritto, per piacere raccontatemelo. Così invece è andata con i miei uffici stampa. Lo scorso fine settimana, prima di raccontarvi del mio incontro con Nadal, sono stato a Roma. Ogni volta che vado a Roma sono contento. E ogni volta che parto da Roma sono contento. Sarà per questo che Roma mi sembra la città ideale in cui passare qualche giorno. Perché mi fa piacere andarci e mi fa venire la voglia di tornare a casa mia. Non so come dire, però ci sono città che ti mettono a disagio, perché quando tu ci torni ti aspetti di trovare quello che avevi lasciato la volta prima e invece le cose sono cambiate, no? Cioè, cose piccole magari, però non c'è più il bar in cui facevi colezione, oppure hanno tirato su un palazzo al posto di un piccolo parco in cui andavi a fare tre passi. Cioè, poi magari le cose nuove sono più interessanti di quelle vecchie che c'erano prima, però un po' di spaesamento te lo creano comunque. Roma, no. Roma è sempre intatta. È esattamente così come te la ricordavi. Il Tevere color senape, i fori imperiali, le buche nelle strade, le palme nei giardini, le sirene, i gladiatori di plastica e la cortesia della gente. Quando vado a Roma sto sempre ospite da un amico. Lui vive sopra la stazione Tiburtina. Si chiama Marco. Ha una casa grande e bellissima, è una stanza tutta per me. Poi tra l'altro lui fa l'attore, fa i film per il cinema, la TV e quindi non c'è quasi mai. A Roma ci sono andato per incontrare un piccolo editore che vuole pubblicare un libro in cui racconto tutto quello che ho venduto lo scorso anno. Ci siamo incontrati nella sede della casa editrice, un edificio chiaro di tre piani in zona Parioli. Lui è una persona molto garbata, con i capelli bianchi e un viso conciliante. Appena entrato io gli ho spiegato del mio voto, no? Quello per cui ormai dico sempre la verità. Lui mi ha detto che lo sapeva, perché aveva sentito il programma, quindi era preparato. Mi ha spiegato che loro pubblicano pochi libri all'anno, che però li curano molto bene, che secondo lui questa storia del mettere all'asta i pezzi della propria vita è una cosa molto interessante, molto contemporanea, mi ha detto. Io gli ho detto che non so se sia contemporanea, ma che di sicuro è una cosa che ti lascia completamente a mani vuote. Lui ha sorriso, poi mi ha detto che hanno un ufficio stampa molto bravo, che sa far parlare molto bene dei libri che vengono pubblicati. Ecco, io lì gli ho detto che a me gli uffici stampa fanno uno strano effetto, che li trovo a volte stucchevoli e a volte disperati. Credo che sia il secondo lavoro più brutto dopo l'avvocato. Cioè, penso che dover chiedere quasi come fosse una cortesia ai giornalisti di parlare di un film, di un libro, di un concerto, senza che questi abbiano mai letto quel libro, visto quel film, ecco, mi sembra ipocrita. Che tanto alla fine i motivi per cui le persone comprano una cosa piuttosto che un'altra sono imperscrutabili, che quindi il libro magari lo facciamo anche, però chi se lo vorrà comprare se lo compri, altrimenti niente. Comunque, nonostante tutto, l'incontro è andato bene e io comincio a pensare che la verità più o meno valga la pena di essere detta. Ci siamo salutati. Quando sono uscito ho avuto la netta sensazione che ho sempre quando vado a Roma e parlo con i romani. L'impressione che a Roma io non riesca proprio a dire di no. Quella Roma del cuore di Roma, me la andavo da quella Roma della Banca Commerciale Italiana, del Monte di Pietà, di Piazza di Campo di Fiori, di Piazza Lavona, quella Roma che c'è, la sigaretta, prestami 100 lire, quella Roma del Covid, del concorso ippico, quella Roma del foro che portava e porta ancora il nome di Mussolini. Me ne andavo da quella Roma di merda! Mamma Roma, addio! No, io a Roma non riesco proprio a dire di no. Non so cos'è, che però c'è una cordialità scanzonata, a volte disinteressata, a volte cialtrona a Roma, a cui non riesco a non sottostare. E tutto quello che mi viene proposto io lo accetto. Che sia una cremolata offerta da un cameriere anche se non ho fame, una passeggiata sul Lungotevere se sono stanco, che sia una proposta editoriale, una canzone in romanesco cantata in cambio di 50 centesimi. No, io non riesco a dirle di no. Là sotto l'arberi del Lungotevere le coppie fidano, li baci scrocchiano, se non sei pratico da raggiamoccoli per Lungotevere non c'è passà. Insomma, dopo quell'incontro ho raggiunto degli amici a cena. Fuori da un ristorante al testaccio improvvisamente è apparso questo tizio, che ci si è piazzato davanti e ha attaccato a cantare la sua canzone. Alla fine, mentre cercavo qualche moneta in tasca, lui mi ha raccontato di avere il 50% di invalidità e di prendere 250 euro di pensione, anche se adesso avrebbe chiesto l'accompagnamento. Non so se tutto quello che mi ha raccontato fosse la verità, però nella sua voce, nel modo di cantare con il sorriso sulle labbra, c'erano una gioia, una malinconia struggenti che erano più forti della sua sincerità. Forse anche per questo. Anche questo fa parte di quella cosa di Roma che mi fa venire voglia di andarci e di partirci. Dopo la cena e lo stornellaro sono andato a teatro insieme a questo gruppo di amici perché stavano provando uno spettacolo. Io praticamente ho smesso di fare l'attore, però mi restano ancora un sacco di persone che questo mestiere lo fanno ancora. Le prove erano al Teatro India, che è un posto che è una specie di dépendance creativa del teatro argentino, il teatro grande, quello ufficiale. Loro stavano provando uno spettacolo che si chiama Lear, che è tratto ovviamente da Re Lear di Shakespeare. Perché non so se lo sapete, ma Shakespeare ha sempre qualcosa da dire, a qualsiasi età, in qualsiasi epoca. Mentre guardavo le prove di uno spettacolo in cui l'ultimo grande attore italiano diceva delle battute vecchie di secoli con la stessa facilità con cui avrebbe ordinato una pizza, pensavo che in fondo non mi dispiace di aver abbandonato quel lavoro lì. Che ci vuole un gran coraggio a salire su un palco e dire cose non tue facendo finta che lo siano, ma soprattutto convincendoti che lo siano, perché se non sei convinto che quelle cose lì che stai dicendo le stai anche pensando, quello che ne uscirà sarà una roba orribile da teatro dell'oratorio. E far finta di essere qualcun altro è un atto di coraggio, perché devi abbandonare il giudizio su chi sei tu, in modo da poter credere a quel qualcun altro di cui ti stai prendendo la parte. Sì, lo so che è un discorso intricato, però credo che fare l'attore in teatro oggi, in questo periodo, sia un atto di coraggio gigantesco, un po' per tutto quello che dicevo prima, ma anche perché ti pagano 2 lire e perché del teatro non gliene frega niente a nessuno. Se non a qualche signora che ancora ci tiene ovviamente a rinnovare l'abbonamento in terza fila vicino al corridoio, però che se per caso mi annoio posso sempre uscire, o a qualche giovane speranzoso che vuole far l'attore. Cioè, è come se andare in vacanza interessasse solo a chi ha una casa di famiglia al mare o a quelli che fanno i bagnini. Tutti gli altri invece ti devi inventare 1000 modi per convincerli che andare al mare è una figata. Ed eccoci qui, ecco perché esistono gli uffici stampa. Ecco perché li trovo un po' lontani dalla sincerità. Ecco perché alla fine, domenica sera, quando ho ripreso il treno per Milano, ero contento. A Milano, io mi lamento del cemento e mi trasformo in un momento. A Milano io mi sento più violento, me la prendo con i taxi, con i tram e le copass, contro chi non ho votato, con il freddo, con il vento, per l'estate invece la fai rezzanzare. A Milano 800240024 0024 349 238 6666. Tutti gli uffici stampa all'ascolto, so che questo è un momento della giornata molto particolare per voi, in cui tutti, diciamo, i preparativi fervono e state scrivendo tutti i comunicati stampa del caso. Però oggi ho proprio bisogno di voi, ho bisogno che voi mi parliate del vostro lavoro, perché ho un rapporto molto particolare con gli uffici stampa e vorrei capire fondamentalmente come fate. 800240024 349 238 6666. Vale tutto, che siate ufficio stampa di un'azienda che produce rubinetti. Esistono gli uffici stampa, esistono per forza, che produciate vetri, che siate l'ufficio stampa di un teatro, perché no, di una grande casa discografica, Esistono ancora le grandi case discografiche. 800240024 349 238 6666. Raffaella, ad esempio, scrive, anche per smentire un po', no? Questi, io li ricevo, arrivano a mandartene anche più di uno al giorno. Mittente indesiderato nel cestino, Zac. Luigi scrive, perché per non parlare invece della coda, che credo sia la parte finale in cui si descrive l'azienda, che descrive l'azienda che è più lunga del comunicato in sé. Uffici stampa all'ascolto, è arrivato il vostro momento, la vostra grande vendetta. 800240024 349 238 6666. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. È l'1 e 15 minuti, è mercoledì 13 ottobre 2010, c'è un canale live della BBC tutto dedicato alla diretta dal Cile per l'estrazione dei 33 minatori che sono sotto la miniera da ormai 2 mesi. Sta calando la sera in Cile perché credo che siano le 8 e 15 minuti, c'è un cronista inglese che sta parlando, hanno fatto vedere come funziona il metodo di estrazione. C'è una capsula che è una roba lunga tipo 2 metri, all'interno della quale ci sta una persona con le braccia lungo il corpo, immagino, ha delle grate per cui non è completamente chiusa, c'è il grande fermento, c'è un sacco di gente, ci sono le bandiere, c'è la bandiera del Cile, ha appena parlato il ministero cileno, quello con il giubbotto rosso. È 1:16 in questo momento, manca poco perché mandino giù questa capsula, ci metteranno probabilmente 1 ora a recuperarli. Non sta succedendo niente, però rimane attaccato al televisore per guardare cosa succede. 1:16, mercoledì 13 ottobre 2010. Un pezzetto bello tondo di cielo d'estate sta sopra di me. Non ci credo, lo vedo restringersi contro le stelle. Ora sento tutte queste voci, tutta questa gente ha già capito che ho sbagliato, sono scivolato, sono caduto dentro il buco. Bravi, sono venuti subito, sono stato stupido, ma sono qua. Gli aiuti, quelli dei pompieri, i carabinieri, intanto di... A un certo punto dal mucchio emerge un piccoletto con la faccia scavata e i capelli arruffati. Ha un fisico minuto e potrebbe essere la persona giusta. Si chiama Angelo Licheri, ha 37 anni, è sardo ma vive a Roma. È sposato con tre figli e lavora come fattorino presso una tipografia. Ha deciso di andare a Vermicino senza dire niente alla moglie, per non farla preoccupare. Viene preparato in superficie dai ragazzi del soccorso alpino. I sanitari, come già avevano fatto con l'altro, effettuano una rapida e sommaria visita medica per capire se l'uomo è in condizione di affrontare questa prova. Riceve il saluto e l'incoraggiamento del presidente Pertini, che continua imperterrito a rimanere lì, in prossimità del pozzo. Infine sale sull'ascensore e inizia a scendere. Dopo una serie ormai infinita di sconfitte, la sorte di Alfredino viene affidata a un piccolo uomo che porta scritta in faccia la vita difficile che ha condotto finora. Ma sarà proprio lui ad andare più vicino di chiunque altro alla salvezza del bimbo. Il fatto è che ieri sera, mentre ero lì davanti, ieri notte direi, mentre ero lì davanti alla televisione e non succedeva ancora niente, perché ancora non stavano calando questa capsula, ormai tutti sanno, tra l'altro hanno dato la notizia prima al GR che ne hanno tirati fuori il 13esimo, credo, quindi ne mancano 20, no? E mi sono accorto che era come se tutto il paese, tutto il Cile fosse intorno a quel buco lì, però probabilmente tutto il mondo era intorno a quel buco. Io sicuramente ero lì perché volevo guardare e ho guardato fino a tardi questa notte. E mi sono ricordato che io avevo 6 anni nel 1981 e 6 anni aveva Alfredino, che era il bambino che era finito in quel pozzo artesiano a Vermicino, vicino a Roma. Non mi ricordo bene che cosa accadde e poi chiaramente c'è tutto un pezzo di storia d'Italia e di pezzo di storia della televisione legata a quella storia di cui non voglio nemmeno parlare. Ricordo però mio padre che rimase alzato quella notte per vedere che cosa accadeva intorno a quel buco. Il pezzo che vi ho letto è tratto da un libro molto bello di Massimo Gamba che si chiama Vermicino, l'Italia nel pozzo. Il resto della storia continua e spero che a breve finirà col numero 33. Forlania, la DC. 800240024 349 238 6666. Se alla conferenza stampa non è pieno di giornalisti, al termine di questa giornata io non ti voglio più vedere. Diego, io sto facendo il possibile, io non so. Alla mano. Perché comunque rimaniamo sull'ufficio, perché sicuramente c'è un lavoro di ufficio stampa anche dietro ai 33 operai nel pozzo, cioè non a loro che sono finiti giù, ma a tutto quello che sta succedendo. Prima su Facebook mi è arrivato un messaggio di Laura che dice: io li scrivo, ne scrivo tantissimi tutti in un solo mese e poi pochissimi durante l'anno, e li mando cercando di non essere invasiva ma utile, se ce la faccio. Pronto, Laura? Laura? Sono qui. Ciao, sono buongiorno, qui. Come stai? Buongiorno, bene, grazie. Mi hai anche fatto sentire Alfredino, sono contenta. Senti, giusto, ricordiamo invece che il pezzo che abbiamo mandato è un pezzo dei Baustelle che si chiama Alfredo, al proposito. Laura, senti, allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, che cos'è un ufficio stampa? Un ufficio stampa è un gruppo di persone o anche una persona sola che raccoglie le informazioni su quello che la manifestazione per la quale sta lavorando vuole comunicare e poi le comunica, cercando di renderle interessanti. Interessanti, brevi. Quindi l'interlocutore dell'ufficio stampa sono i giornalisti. I giornalisti. Ok. Mi dici tu che ufficio stampa sei? Io lavoro per il Festival Mito Settembre Musica. E quindi mi occupo. Che è il festival, diciamo che è il festival che si tiene in questo periodo, in tra l'altro. Giusto? In settembre, sì, è finito da 2 settimane, si tiene in settembre a Torino e a Milano. E a Torino e a Milano, altrimenti non si chiamerebbe Mito. E tu quindi c'hai una roba concentratissima in un mese? In un mese, esatto, perché noi abbiamo una media di 2-3 concerti tutti i giorni per 20 giorni. E poi vai in vacanza? No, e poi continuo a lavorare, perché non faccio solo l'ufficio stampa, mi occupo anche di altre cose, di organizzazione di tutto il festival, e quindi per tutto l'anno, anche con un periodo di vacanza, lavoro all'edizione dell'anno dopo. Senti, Laura, ce l'hai sotto mano? Ce l'hai, perché te l'ho chiesto prima quando ci siamo sentiti, quindi ce l'hai? No, ho l'ultima l'ultima giornata. Oh, dimmi il titolo del comunicato stampa. Ah, guarda, è molto banale. Programma della giornata. No, ma come? Ma non deve essere appetibile, interessante, fare questa è la cosa più interessante, che cosa succede domani. Ed era quello che io dicevo il giorno 23 per dire che cosa sarebbe successo il 24 settembre. Senti, quanta sincerità c'è nel lavoro dell'ufficio stampa? Per le cose di cui mi occupo io, molta, nel senso che noi parliamo di artisti che sono di solito già abbastanza conosciuti, quindi dobbiamo semplicemente dire che verranno, dare delle informazioni utili sui biglietti, sugli orari, sui posti, sugli eventuali. Dimmi invece, Laura, poi ti saluto, dimmi l'evento che ti è riuscito meglio, che è riuscito meglio grazie al tuo lavoro. I turchi, le sfilate dei turchi. Scusami, non ho capito, le sfilate dei... della banda dell'esercito turco che c'è stata quest'anno sia a Torino che a Milano per il nostro festival. Laura, grazie mille, buona giornata. A te. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo a Siracusa da Carmelo. Pronto, Carmelo? Eccomi. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao Matteo, bene, bene. Senti, tu sei in ufficio? No, in questo momento no, sono uscito dall'ufficio, quindi non ho appreso il comunicato che avrei voluto leggere. Ah, e che comunicato era? Ma stamattina abbiamo preparato un po' di comunicati. L'ultimo è una convocazione per una conferenza stampa. Domani il presidente della provincia per cui lavoro e un assessore avrebbero spiegato a che punto stanno dei finanziamenti per delle imprese. Beh, ma ha voglia a rendere interessante una roba del genere, Carmelo? Capisco che è difficile, ma non per come dire, spezzare una lancia a favore del settore o della categoria, ma ti assicuro che io mi sento molto utile. Senti, Carmelo, dimmi come fai a rendere interessante una roba che è scritta su un foglio bianco e che dice che l'assessore, che hai detto, il presidente della provincia avrebbe comunicato gli esiti di qualcosa. Cioè, ci metti, calcoli la spaziatura tra le parole, decidi cosa mettere in grassetto e cosa no. Guarda, io credo che è bene per uno che lavora in un ufficio stampa avere un'esperienza dall'altra parte della barricata, cioè aver lavorato nelle redazioni. Io ci ho lavorato per molti anni. Tu sei un giornalista, anni. Quindi, Carmelo? Sì, sono un giornalista professionista e sono quasi vicino ai 60 anni. Ho lavorato per moltissimi anni nella carta stampata, nella TV, e io so cosa attendono i miei. Cosa arriva dall'altra parte. Quindi, scusami, Carmelo, di fatto uno che vuole fare l'ufficio stampa fa il giornalista. E poi fa l'ufficio stampa. Va bene. Anzi, io consiglierei a chi vuole approcciare a questo tipo di lavoro di maturare un'esperienza nei giornali, certo. Altrimenti certamente, come dici tu, non si ha la possibilità di scrivere bene su un foglio bianco, c'è il rischio di parlare in burocratese, e una volta, quando gli uffici stampa non erano strutturati bene, spesso scrivevano comunicati che andavano nelle redazioni, immagino, dei funzionari. Guarda, ma prima la migliore di tutte le assistenti, cioè Vittoria Mussini, mi faceva vedere che è arrivato un comunicato e la prima parola era, invece che buongiorno, buongirono. Grazie mille Carmelo, buona giornata. Okay, ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo a Padova da Giancarlo, che ce l'ha un comunicato di stampa in mano. Pronto? Ce l'ho. Bravo Giancarlo. Cosa hai detto? Anche da mia moglie, che è una tua fan, ti seguiamo anche su Facebook. Va bene, ma non sei lì con lei adesso Giancarlo? No, lei adesso davanti al computer, io sono in automobile perché sono a Padova, sto andando a fare un po' di lavoro. Che ufficio stampa sei tu? Allora, sto collaborando con una multinazionale americana che si occupa di integrazione nutrizionale, abbiamo una sponsorizzazione sportiva molto recente fatta con Carolina Costner e Tania Cagnotto, da qualcuno che riempie di orgoglio perché sono due testimonial di eccezione, avevamo appena finito di sponsorizzare. Le avrete anche strapagate, immagino, probabilmente, Giancarlo. Ma questo non lo sai, questo non lo sai. Questo non lo so, però diciamo che l'azienda per cui lavoro era multinazionale che esiste da 30 anni. Quindi le avete strapagate. Dimmi qual è il titolo del comunicato. Allora, Herbalife nello sport sponsorizza atleti e squadre più di 60 eventi sportivi nel mondo. È sponsor della squadra di calcio di Los Angeles Galaxy, abbiamo collaborato con l'Inter. Insomma, detto Giancarlo, già ho capito, la questione comunque per me rimane è veramente come riesci a rendere interessante una roba di questo genere. Cioè, come il giornalista che lo riceve riesca a dire, toh, questa però effettivamente... Allora, sicuramente i nomi delle atlete sponsorizzate sono... sono un richiamo, certo. Poi naturalmente quando li metteremo in giro cercheremo col Grassetto, con gli evidenti Grassetto e Italic, no? E Bold Italic. Giancarlo, salutami tua moglie, grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Andiamo all'ultima telefonata, che non abbiamo più tempo. Andiamo da uno che non è un uomo, è più che altro un martire. Luca. Pronto? Luca, ciao, Matteo. Tu non solo sei un ufficio stampa, tu sei uno stagista di un ufficio stampa. Io sono un povero stagista che dell'ufficio stampa di un ente della provincia dove abito. E che, sì, sono che provincia nelle è, grinfie. Luca? Verona, provincia di Verona. Sei nelle grinfie? Sono nelle grinfie dei miei, nelle grinfie magnanime, però, perché devo essere politically correct, dei miei supervisori. Senti, ma ce l'hai uno stipendio, Luca, oppure cos'è, rimborso spese? Prossima domanda. Quanti anni hai? 27. 27, quindi sei uscito dall'università quando? No, io mi laureo giovedì. Questo giovedì della settimana prossima, quindi devi assolutamente farmi gli auguri. Questi ha voglia, in bocca al lupo più che auguri. Grazie. Immagino che la tesi sia sull'ufficio stampa. La tesi l'ho fatta sull'ufficio stampa, però di un'azienda modenese, quindi... Dimmi il titolo della tesi, Luca, e poi ti saluto. Allora, ufficio stampa di Pagani Automobili. Tutto qua. Bello, eh? Ma aspettavo chissà che. Luca, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Ciao Matteo. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie a lui, grazie però soprattutto a Vittoria Mussini, a Paulino Corleoni e a Tiziano Bonini, anche se oggi non è con noi. Domani alla stessa ora. Io sono qui.